4 mattino. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Come sapete, credo, e come abbiamo detto anche prima, questa settimana Alessandro è in vacanza, lo ritroveremo lunedì prossimo e quindi sono qui, insomma, a sostituirlo più o meno degnamente nella lettura dei giornali. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì, e come poi ci spiegherà Mauro Meazza tra una ventina di minuti, è un numero proprio di approfondimento, e quindi oggi il titolo principale è sull'università. Tra l'altro mercoledì con il Sole 24 Ore ci sarà la guida alla scelta dell'università, un inserto di 80 pagine. Intanto però una prima ricognizione di quello che offre l'università agli studenti del prossimo anno accademico. Università, sempre più corsi, 4 su 10 sono diventati a numero chiuso. Molti altri gli argomenti appunto sul Sole 24 Ore, anche un editoriale di Salvatore Padula, che del Sole 24 Ore è uno dei vice direttori, che parla della questione delle agenzie delle entrate, al vertice della quale, sapete, c'è stato appena un cambio. Rossella Orlandi ha lasciato il posto a Ernesto Maria Ruffini. E Salvatore Padula ripercorre un po' la trasformazione che ha portato appunto all'istituzione, ormai nel 2001, dell'Agenzia delle Entrate. Il Corriere, come potete immaginare, tutti i giornali aprono sui primi risultati che potevano essere registrati quando i giornali sono andati in stampa. Per tutti gli aggiornamenti meglio seguire i siti di Radio 24, del Sole 24 Ore e GR naturalmente di Radio 24. Vi scorro comunque rapidamente i titoli dei giornali di oggi. Il Corriere della Sera, i 5 Stelle sconfitti nelle città. La Repubblica, comuni, virgola, la frana di Grillo. La Stampa, il voto delle città punisce i grillini. Quasi tutti i giornali poi hanno anche un accenno alle altre elezioni che ci sono state in Europa ieri, cioè in Francia, il primo turno in quel caso delle elezioni legislative, cioè per rinnovare l'Assemblea Nazionale, il Parlamento francese, dove sapete è andato molto bene il partito di Emmanuel Macron. E per esempio la Stampa titola: capolavoro di Macron, conquista la Francia. Visto che una delle città simbolo di queste comunali era Genova, perché Genova è la città dove Grillo è nato, dove Grillo vive, il fondatore, il cofondatore del Movimento 5 Stelle, e allora il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, titola: Movimento 5 Stelle KO, testa a testa, Bucci, Crivello, che sono i due candidati. Uno è del centrodestra, Marco Bucci, ha preso il 37% al primo turno, e l'altro, che è una sorta di centrosinistra barra lista civica, ha preso il 31%. I ballottaggi, come sapete, saranno tra 2 settimane. Ringrazio, tra l'altro, approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno mandando dei messaggi al 349-238-6666. Molto, naturalmente, molti sono sulla questione dei vaccini, che desta posizioni molto radicali. E per esempio scrivo un ascoltatore: nei vaccini c'è alluminio che è neurotossico, che non c'è nemmeno, scrive questo ascoltatore, nei vaccini per i gatti, e invece ai bambini fa bene, come possiamo fidarci? Credo che, come diceva l'inchiesta di Science ripubblicata da Internazionale, appunto la cosa migliore sia l'informazione e un po' più di fiducia nei medici, se non in Big Pharma, che desta così tanti timori. Big Pharma sta per un appellativo non proprio così lusinghiero, che viene dato ai giganti delle aziende farmaceutiche, del settore farmaceutico. E ringrazio anche Renato, che invece ci ricorda che le amministrative, perché ricordiamo, ieri avevano diritto ad andare a votare circa 9 milioni di italiani. In realtà l'astensione è stata molto alta, o l'affluenza molto bassa, a seconda di come la si voglia vedere. Quello che ci chiedevamo nella prima parte della trasmissione era quali saranno le conseguenze, se ci saranno a livello nazionale politico, di questi risultati. E Renato scrive: le amministrative si muovono su dinamiche del tutto locali e clientelari, per questo la gente non va a votare. Torniamo alle prime pagine. È la prima volta, credo, a mia memoria, che due giornali hanno lo stesso identico titolo. Il giornale, Il Grillo perdente, poi si differenziano nei sommari, perché il sommario del giornale è: Batosta 5 Stelle, 2 punti fuori da tutti i ballottaggi importanti, mentre Libero, Il Grillo perdente, e poi nel sommario una serie di informazioni. Il Movimento 5 Stelle paga quelle che Libero definisce testuale le boiate di Raggi e Appendino. Nelle città torna il bipolarismo sinistra-destra, ma alle politiche non sarà così. Questa è la previsione di Libero. Il Messaggero, sindaci, questo è il titolo più... come possiamo dire, più non neutrale perché non lo è, però più così equilibrato secondo me, sindaci, virgola, battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle, perché appunto è tutto da vedere, come abbiamo accennato, che questi risultati comunali abbiano poi una ricaduta su quelli nazionali, anche perché non sappiamo assolutamente a oggi se andremo a elezioni anticipate o no, e anche questa è una delle cose che verificheremo nei prossimi giorni. Se cioè quello che molti davano per archiviato, cioè la nascita di una legge nuova per andare a una nuova legge elettorale per andare a votare entro il 2017 e non alla scadenza naturale della legislatura nel 2018, vedremo se riprenderà la discussione o no. Il Giorno, Grillo in panne, la foto è di Grillo sul suo scooter. E vi segnalo invece il titolo del Fatto Quotidiano, sfida PD destra, 5 Stelle fuori. In prima pagina è l'unico, come abbiamo detto nella prima parte, il Fatto Quotidiano è l'unico che dedica un vero e proprio articolo alla manifestazione che c'è stata ieri dei cosiddetti Novax, e lo richiama anche in prima pagina. La Gazzetta dello Sport apre sul calciomercato, ebbene sì, anche se nel palchettone ci sono i risultati del Gran Premio di Formula 1 e poi dei risultati del motociclismo, rosso sì, rosso no. In prima pagina trova spazio anche se uno spazio minore, la storica vittoria di Rafael Nadal al Roland Garros, perché è storica, perché nessuno prima era riuscito a vincere per 10 volte uno dei tornei del Grande Slam, in questo caso appunto il Roland Garros, il più importante torneo di tennis su terra rossa. Vi segnalo il Foglio Quotidiano, che un po' come il Sole 24 Ore, al lunedì ha una edizione di approfondimento, ma comunque il direttore Claudio Cerasa faceva un commento, diciamo, preventivo sui risultati delle elezioni, che si intitola "Il voto ci dice che i populismi si combattono più con il buon senso che con l'algebra. Le amministrative riapriranno un dibattito a sinistra su vari temi, gustosi quanto inutili. Coalizione o non coalizione, nuovo Ulivo o nuovo Labour, fesserie", scrive Cerasa, perché l'alternativa allo sfascismo non viene dalle alleanze ma dalla forza tranquilla della ragione. E visto che siamo sulle prime pagine, vi segnalo anche, cercherò di farlo tutte le mattine questa settimana, le aperture di alcuni quotidiani stranieri. Il Guardian, perché gli inglesi hanno votato giovedì scorso, i britannici hanno votato giovedì scorso per le elezioni anticipate politiche. Come sapete non c'è ancora un nuovo governo, anzi c'è una vera e propria fase di stallo. Addirittura ieri il leader del Labour, Corbyn, ha detto: ma io non escludo comunque di diventare premier, anche se invece Theresa May sta lavorando a un nuovo governo. E quindi il Guardian: "May appeals to MPs for support as her future hangs in balance." Theresa May si appella ai parlamentari, naturalmente i suoi soprattutto, per darle il sostegno che ha bisogno, essendosi ridotta drasticamente la maggioranza del Partito dei Conservatori in Parlamento, e il suo futuro però, scrive il Guardian, è in bilico. Le Figaro titola "En Marche", che è il partito costituito da Macron pochi mesi prima di candidarsi per l'Eliseo, domina il primo turno con un 32,32% dei voti. Le Monde titola "La République en Marche", quindi una specie di gioco di parole tra En Marche, che è il nome del partito di Macron, e La Repubblica, quindi La Repubblica in marcia, e in testa il premier al primo turno. El País titola su Macron, ma come fatto notizia, come potete immaginare, ha il Nadal che solleva la coppa del Roland Garros. Nadal agiganta su leyenda en Paris, cioè ingigantisce quella che comunque era già una leggenda. Nadal è sicuramente uno dei più grandi tennisti che abbiamo avuto. Ci fermiamo un attimo per una pausa, ci ritroviamo tra poco e poi ritroveremo anche Mauro Meazza tra una decina di minuti. "24 mattino". Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Abbiamo scorso le prime pagine dei giornali, ringrazio gli ascoltatori e in particolare a Damiano, che chiede: WhatsApp oggi non funziona? Purtroppo sì, stamattina non funziona, sicuramente lo sistemeremo e domani mattina lo avremo ancora. Come potete immaginare, ci sono pagine di commenti su questi primi dati, che tra l'altro erano i dati arrivati ieri sera, quando i giornali hanno delle scadenze, non possono aspettare più di tanto per chiudere, quindi appunto quasi più spazio ai commenti che ai dati. Ve ne segnalo solo tre, perché poi sono molte altre le cose che sono successe nel mondo ieri, per fortuna. Su Repubblica, attenzione, una specie di intervista a Bersani di Giovanni Casadio intitolata «Provato che la sinistra vince solo unita». Non è una barzelletta, l'ha detto veramente, cioè il fuoriuscito dal Partito Democratico, con tutto quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico, con Renzi che offre un'alleanza a Pisapia che però prende tempo, Bersani dice «è provato che la sinistra vince solo unita». Il Corriere della Sera invece una pagina intera e molto interessante, in particolare la parte di Gian Antonio Stella sulla quella che sarà quasi certamente una, o meglio vedremo, comunque il due sondaggi danno Leo Luca Orlando, candidato per il centro-sinistra a sindaco di Palermo, ha preso tra il 39 e il 43% dei voti secondo un sondaggio, tra il 41 e il 45% secondo un altro, quindi andrà al ballottaggio con Fabrizio Ferrandelli del centrodestra e vedremo appunto chi vincerà. In ogni caso sarebbe il quinto mandato di Orlando, che ha 69 anni. La sua carriera politica è stata costellata di successi ma anche di molte polemiche. Nel 2001 fu, dopo il terzo mandato da sindaco, si candidò a governatore della regione Sicilia, fu sconfitto da Cuffaro. Nel 2012 è stato eletto per il quarto mandato e ora forse avrà un quinto mandato, il nuovo che avanza. Una analisi secondo me interessante e equilibrata, perché ci sono anche alcuni ascoltatori che scrivono dicendo che stiamo parlando in modo superficiale dei 5 Stelle. Io credo che sia importantissimo che quel malessere che i 5 Stelle avevano intercettato continui a essere al centro dell'agenda politica. Questi dati però sono oggettivi, per quanto siano dati delle elezioni comunali, perché appunto in nessuna delle città, compresa la città del fondatore Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle è riuscito ad andare ai ballottaggi. Questa analisi a pagina 3 della Stampa di Ilario Lombardo si intitola «Il flop dei grillini nei territori, non si può fare finta di nulla». E davvero, appunto, se siete interessati a capire con la migliore buona fede che si possa avere che cosa potrebbe succedere, che cosa è successo, questo mi sembra uno degli articoli più interessanti che ho letto oggi. Torniamo sul Corriere della Sera, perché altri giornali hanno solo una fotonotizia su questo, ma in realtà è stato il Corriere della Sera con Lorenzo Cremonesi, approfondisce la liberazione di uno dei figli, il secondogenito di Gheddafi, che è stato liberato, era stato arrestato nel 2011. Ora è stato liberato e Lorenzo Cremonesi ci racconta il Gheddafi risorto che può cambiare gli equilibri della Libia, perché sicuramente è una figura che, oltre naturalmente a ricordare in ogni modo quella del padre che per tanti anni ha regnato da dittatore sulla Libia, potrebbe anche appunto avere un ruolo politico. Era una specie di ministro degli esseri ombra quando c'era suo padre, quindi comunque uno che non si occupava di calcio come un altro dei fratelli, che addirittura giocava a calcio, è arrivato a giocare a calcio nella Juventus, credo, era proprio coinvolto nella gestione del suo paese. Subito sotto un altro articolo interessante, questa volta di Paolo Valentino. Lunedì scorso ci siamo tutti svegliati con la notizia che molti paesi arabi avevano rotto le relazioni diplomatiche con il Qatar, e adesso quasi sembra che ce ne siamo già dimenticati, e invece Paolo Valentino torna su questa questione e ci racconta anche come è esplosa la crisi con il Qatar. Doha, secondo dati confermati, che poi è una delle accuse che muove l'Arabia Saudita al Qatar, avrebbe pagato 1 miliardo finanziando i jihadisti, e all'Iran per salvare per esempio 26 reali, sapete che ci sono queste famiglie reali gigantesche in questi paesi, 26 reali che erano stati rapiti. Ora però spero di avere con noi Mauro Meazza, così torniamo sulle pagine del Sole 24 Ore e ci racconta meglio cosa c'è in edicola oggi sul nostro giornale. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, oggi guarda abbiamo tutta una serie di cose parecchio interessanti, nonché due cose da appuntare, visto che hai da scrivere, hai il diario con te, certo. Prendi nota come sempre. Il fisco. No, il fisco naturalmente è sempre nei nostri pensieri. E, tra l'altro ti segnalo così che abbiamo provato anche a contare le scadenze. Ci risulta una cosa che da qui alla fine dell'anno ci siano 1109 scadenze tra adempimenti, dichiarazioni, versamenti e così via. Ma trovi tutto a pagina 4, perché toglierti la sorpresa, questa gradevole sorpresa appunto. Oggi attenzione, perché si comincia con i dati delle liquidazioni IVA, attenzione perché questo è il primo degli appuntamenti, e poi questa settimana naturalmente festa grande, IMU, TASI e poi via via andremo verso l'IRPEF, quindi insomma è una stagione bellissima questa qui. No, naturalmente sono ironico e non vorrei che poi qualcuno pensasse che sono lieto di essere sottoposto a versamenti continui, dichiarazioni continue, però questo è quello che accade se leggi solo le 24 ore di oggi. Oh, ti segnalo una cosa importante, tu leggi norme e tributi religiosamente, Giulia? Sì, perché sai che ho gli incubi sul fisco, quindi sì. No, ma tu non devi avere gli incubi, tu devi leggere solo le 24 ore, vedrai che anche ti placa, ti fa come la valeriana, per dire così. Allora, sappi che oggi nelle pagine norme e tributi anche un importante approfondimento sul cyberbullismo o ciberbullismo, insomma gli atti di bullismo via social network, ma anche strumenti di comunicazione come WhatsApp e così via. C'è una legge nuova che entrerà in vigore il 18 di giugno. Come funziona? Lo spieghiamo oggi sulle pagine Sole 24 Ore. Te lo segnalo proprio nelle pagine di norme e tributi. Oh, poi naturalmente le cose abituali, per così dire, lunedì, come l'esperto risponde, naturalmente gli ebook. Ecco, a proposito, ci sono sempre tanti ebook importanti, se volete per il pagamento IMU e TASI c'è un ebook a disposizione sempre sul nostro sito. Ma essendo che oggi è lunedì, ed essendo che il debosciatellum, ti piace debosciatellum per Alessandro Milan, visto che si è parlato molto di queste declinazioni alla latina, allora il debosciatellum è assente, ma non saranno assenti invece i nostri endecasillabi che io ho vergato proprio per te, insomma dedicandoli a te, ma con un pensiero anche, come dire, a chi invece, beato lui, sta in vacanza. Con il tuo permesso, Giulia, a proposito, sfogliando adesso il Sole 24 Ore mi accorgo che ci sono anche le pagine di stili e tendenze in cui vedo proprio due contributi di Giulia Crivelli. Beh, peraltro. Sì, perché domani inizia PT Uomo, che è la fiera più importante per l'abbigliamento maschile, poi ci saranno le sfilate a Milano e ricordiamo sempre è la punta, questi appuntamenti sono la punta di un iceberg di un sistema che, scusate la pignoleria, è la seconda voce industriale del PIL del nostro paese, quindi è importante. Fai bene a ricordarlo, anche perché domani poi sul Sole 24 Ore avremo uno speciale di approfondimento proprio su PT Uomo. Invece mercoledì, segna sempre sul diario, l'università. Mercoledì ci sarà una guida per la scelta della facoltà, la scelta dell'area disciplinare, è una scelta sempre più importante perché, come è noto, dalla scelta, da una buona scelta universitaria può dipendere anche poi una carriera, delle prospettive di lavoro, e di questi tempi non voglio aggiungere altro. Va bene, vado allora a declamare, con il tuo permesso. Ritorno volentieri alle frequenze di Radio 24 Generosa, nell'ascoltar poetiche licenze che mando in rima, e non è poca cosa. Per me si va nell'utile sapere che porta ognori il sol del lunedì, a ciò che grande sia lo tuo piacere, leggendo il molto che ci trovi lì. Oggi spieghiam di lauree e di atenei, e ancora ti ricordiamo, segna lì la guida che uscirà, come vorrei che fosse oggi già mercoledì. Intanto, se l'attesa può ingannare, un'altra agenda ti forniamo in più, quella delle scadenze per pagare, a cominciare da TASI e dall'IMU. E poi l'esperto e offerte di lavoro, preziose gemme agli lettori astuti, pagine son che sempre anch'io divoro, talvolta ancor più che norme e tributi. Assente fui nei giorni che il triplete sfumò da chi cercava questo trittico. Canzonature, immagino, ben liete saran piovute, prima e dopo il traffico. 24 Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa e hanno ragione gli ascoltatori che dicono, visti i dati definitivi, quindi non i sondaggi, Luca Orlando ha superato il 40% dei voti, quindi non andrà al ballottaggio, è già sindaco per il quinto mandato, perché una delle molte anomalie della regione Sicilia è che basta appunto il 40% e non il 50% come in molti altri casi, cioè la maggioranza assoluta, per evitare il ballottaggio. Quindi lui è poco sopra il 40 e quindi sarà sindaco di Palermo per il quinto mandato. Vi dicevo altre notizie, e poi anche gli ascoltatori si dividono su in quale squadra giocò uno dei figli di Gheddafi. Mi ricordano tutti che non nella Juventus, perché nella Juventus Gheddafi padre, minimamente azionista, ma alcuni dicono che giocò nel Perugia, altri nell'Udinese, in ogni caso appunto giocò in Italia a calcio. Ma veniamo agli altri argomenti, perché se chiudessimo gli occhi forse o magari, non so, ci sforzassimo di guardare un po' oltre i nostri confini, come vi dicevo, ieri nel mondo sono successe, continuano a succedere tantissime cose e a parte le elezioni in Francia di cui abbiamo dato conto, per esempio Michele Farina sul Corriere della Sera, inviato a Bidi, che è il campo profughi più affollato del mondo, dove ci sono 300.000 persone in fuga dalla guerra in sud del Sudan. Michele Farina appunto ci racconta e illustra grazie alle foto di Antonino Condorelli come si vive in questo campo profughi. Sul Corriere anche una interessante inchiesta di Enrico Marro sulla sanità. Abbiamo parlato dei vaccini e di come comunque questa vaccinazione obbligatoria sarà anche un costo per la sanità, che è già la prima voce di spesa del bilancio dello Stato, come nella maggior parte dei paesi. Enrico Marro torna sul tema degli sprechi, 22,5 miliardi sarebbero riconducibili a prestazioni inutili, frodi, costi standard e burocrazia. Secondo questi dati, ogni 10 euro se ne potrebbero risparmiare 2. Poi c'è il G7 del clima, che era a Bologna, ma il G7 dell'ambiente, scusatemi, non del clima, ma gli americani hanno un po' influenzato l'importanza di questo appuntamento, perché, come sapete, Donald Trump ha annunciato settimana scorsa che gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul clima raggiunto a Parigi l'anno scorso, e quindi questo G7 di fatto dell'ambiente a Bologna è, secondo la maggior parte dei resoconti, un po' un flop. La Repubblica, per esempio, con Eleonora Capelli, titola: clima, USA e UE restano divisi, l'Italia media, cerca di mediare, anche perché appunto l'Italia lo ospita questo G7, come ha ospitato quello di Taormina, dove c'erano tutti i capi di Stato, a Bologna ospita quello dell'ambiente. Dalla Repubblica anche un ritorno sulla vicenda di Airbnb, sapete il sito che poi ha dietro tutta una vera e propria società, una vera e propria organizzazione che permette ai privati di affittare direttamente a chi ha bisogno per vacanza o per business un appartamento in una delle città italiane. Airbnb non è una società italiana ma americana, però attiva anche in Italia da parecchi anni. Il titolo della reportage di Repubblica è: case in centro ma ricavi per pochi, così Airbnb ha invaso l'Italia. Da uno studio dell'Università di Siena su 13 città viene fuori infatti che gli incassi vanno soprattutto alle agenzie di intermediazione. Vi segnalo uno dei molti reportage sulla vittoria di Rafael Nadal ieri al Roland Garros, e ve lo segnalo così con una nota di colore, perché Gianni Clerici, che è stato un tennista nella sua prima vita e poi scrittore e giornalista, racconta questa vittoria. Era a Parigi, ha visto Nadal giocare e vincere. Dalle prime pagine sulla copertina sembrava, una volta tanto, che non parlasse in prima persona. Poi uno va a riprendere l'articolo a pagina 41 e anche questa volta Clerici non resiste alla tentazione e ricomincia a parla di sé, aspetta solo 6 righe e poi, anziché di Nadal, parla di sé. Nadal ha dunque vinto per la decima volta Roland Garros, come a nessuno era mai riuscito. Ha battuto Wawrinka, retrocesso al ruolo di involontario sparacchiatore con lo stesso punteggio con cui l'aveva battuto 4 anni fa nei quarti 6-2, 6-3, 6-1. Ecco qua, e adesso comincia il racconto in prima persona. Ammesso a mia volta sul centrale, credo come extra accattapalle, mi sono ritrovato prima del match tra alti campioni che vi avevano vinto più di una volta. E quindi qui l'elenco. Perciò Gianni Clerici, più in prima persona di così non è possibile. Vi segnalo dalla stampa invece un'analisi come sugli altri giornali del voto francese, spazzati via i partiti tradizionali, molti big dicono addio al seggio perché il Parlamento francese è stato completamente rivoluzionato. E poi a proposito di storie di cui non parliamo perché ci sembrano lontane, ancora dall'Uganda invece un articolo di Lorenzo Simoncelli inviato a Kampala: Uganda, quei ragazzi degli scacchi salvati negli slam e diventati un film. Questa è una storia positiva. Un ingegnere locale trova fondi americani per strappare i giovani alla criminalità. È un progetto appunto della Som Chess Academy e c'è questa foto di questi giovani ugandesi che giocano a scacchi. Un interessante approfondimento, perché questo è un tema, io occupandomi un po' del settore mi ci imbatto spesso, il tema di come stanno cambiando i negozi, stanno cambiando nelle grandi città, nelle piccole, naturalmente sulla spinta dell'e-commerce, quindi della rivoluzione, di una delle tante facce della rivoluzione digitale portata da internet. Sulla stampa trovate un'intervista all'amministratore delegato di Casanova, che è una catena di casalinghi, di negozi di casalinghi. Il web sta cambiando i negozi, ma il franchising non passa di moda. Aspetta, il franchising è quella forma detta anche affiliazione in cui un marchio presta le insegne, alcuni servizi, però i vari negozi sono poi gestiti da imprenditori indipendenti. Un interessante approfondimento sulla questione dei bambini super dotati, che spesso vengono magari all'inizio della loro, chiamiamola così, percorso scolastico, vengono magari scambiati proprio perché sono fuori dagli standard, magari vengono scambiati addirittura per ragazzi meno dotati, quando in realtà sono più dotati. Sapete che per esempio ad Einstein capitò proprio questo. E quindi la stampa ci racconta questa app che è stata creata alla Bocconi, che aiuta i genitori dei bambini che vengono chiamati plus dotati, quando il genio è tuo figlio. E poi un'intervista a una psicologa e psicoterapeuta che segue in particolare questi bambini gifted, che cioè hanno ricevuto un dono, letteralmente in inglese si dice così, che si chiama Roberta Renati: tutti gli indizi per scoprire il talento in erba. Sul Messaggero, ma anche su tanti altri giornali, come vi dicevo, anche viene seguita il percorso che Theresa May sta cercando faticosamente di fare per formare un nuovo governo. Sul Fatto Quotidiano invece un altro approfondimento, questa volta di Gianni Barbacetto da Sarajevo, dove sapete non dovremmo mai dimenticarci, no, dei fatti di Sarajevo, che nel 1992, il 5 di aprile, iniziò la guerra di Bosnia e Erzegovina, che fu, e poi dell'ex, quella che oggi chiamiamo la guerra dell'ex Jugoslavia, che fu il più grande conflitto sanguinosissimo della seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, in Europa. E Gianni Barbacetto ci racconta: è andato a Sarajevo, Sarajevo addio, l'odio prodotto dalle tribù, quindi la situazione era, in realtà purtroppo non è risolta. Serbi, croati, musulmani, a 21 anni dalla fine dell'assedio si rinfacciano i terribili massacri e i politici mantengono il potere creando altre divisioni. C'è ancora pochissimi secondi e vi segnalo allora, sempre dal Fatto Quotidiano, un approfondimento sui campi estivi. Il pupo dove lo metto? Sappiamo, sono finite le scuole, ora bisogna trovare un modo, perché non si può andare in vacanza 3 mesi, per occupare il tempo dei bambini, adolescenti che appunto non vanno più a scuola. L'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Paolo Corleoni in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, grazie a tutti gli ascoltatori, a domani.